L'altro pianeta. Milano, 16 gennaio 2012, scatta l'area C. Il traffico, secondo me, è dovuto soprattutto alle persone esterne che vengono verso Milano. Sarebbe meglio alzare la quota per gli esterni e lasciare gratuito gli interni. Qualcosa di diverso questa mattina? Molti stanno entrando prima delle 7:30 per riuscire ad evitare il blocco del traffico. È assurdo, non lo so, per uno che lavora è impossibile. Per 100 metri devo venire via alle 6:30 di casa per poter parcheggiare prima delle 7:30. Ha notato più passeggeri sui mezzi? Sì, ma anche i colleghi soprattutto mi hanno detto che sulla linea gialla sono aumentati parecchio. Di solito papà vi lasciava un po' più avanti? Sì, un pochino, ma poco. Da qua laggiù, pochissimo. Una buona giornata da Alessandra Tedesco. Queste che avete sentito sono le voci di alcuni milanesi raccolte da Maria Luisa Pezzali il primo giorno in cui è entrata in vigore a Milano l'area C. L'area C è la zona centrale della città, delimitata dalla cosiddetta cerchia dei bastioni. Dal lunedì al venerdì, per entrare in questa zona con la macchina, bisogna pagare 5 euro. I residenti nella zona hanno delle agevolazioni, 40 passaggi gratis e i successivi a 2 euro. Il provvedimento è stato preso dal Comune di Milano per ridurre il traffico e conseguentemente anche l'inquinamento. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran. Area C è il centro del Comune di Milano, è un'area di 8 km quadrati ed è considerata quella meglio servita dai mezzi pubblici d'Italia. Già oggi entrano ogni giorno 500.000 di persone con i mezzi pubblici e solo i 100.000 entrano in automobile. Noi abbiamo voluto fare un intervento che andasse a ridurre ulteriormente le auto che entrano, sia perché questo porta ovviamente a migliorare la qualità della vita del centro, sia perché stiamo vedendo produce effetti positivi a valanga sul resto della città. Abbiamo scelto di fare un pedaggio di congestion charge, la prima congestion charge italiana, proprio con l'idea che questo ci permettesse sia di ridurre il numero di auto entranti, sia di riutilizzare interamente quelle risorse per migliorare il trasporto pubblico al servizio di tutta la comunità. Quindi, insomma, è stato fatto sia per diminuire il traffico che ovviamente di conseguenza per diminuire l'inquinamento. Che bilancio possiamo trarre per queste due prime settimane di applicazione? I risultati sono per il momento in linea con quelli attesi, cioè il traffico all'interno dell'area C si è dimezzato rispetto a prima. Se entravano 100.000 auto, adesso entrano tra le 50 e le 60.000, con una riduzione intorno al 40%. Contemporaneamente non ci sono stati problematiche nuove rispetto a quelle del passato nel traffico fuori dalla cerchia dei bastioni dell'area C. Il sistema di trasporto pubblico è stato potenziato in maniera contestuale e ha retto il maggior numero di utenti derivanti dal fatto che molte persone hanno rinunciato ad utilizzare l'automobile. Quindi, da questo punto di vista, credo che la città, grazie a questo provvedimento, stia diventando più bella e più a misura di uomo. A proposito dell'inquinamento, però, si dice che il livello delle polveri sottili è rimasto sostanzialmente stabile. Quello che però è diminuito, invece, è il cosiddetto black carbon, di circa il 30%, che poi è la componente più dannosa del PM10. Quindi, insomma, i risultati anche in questo senso ci sono. Area C è un provvedimento che nasce prima di tutto per ridurre la congestione del traffico, poi essendo il traffico la principale causa dell'inquinamento avrà degli effetti anche dal punto di vista dell'inquinamento. Le concentrazioni di PM10 sono rimaste sostanzialmente inalterate, ma d'altronde le centraline di tutta la Lombardia danno dati sostanzialmente omogenei. Quello che è cambiato è la tossicità delle concentrazioni di PM10, appunto come diceva lei il black carbon è sceso, cioè le emissioni prodotte nell'area C sono evidentemente diminuite, essendoci meno automobili. Questo le centraline del PM10 non lo possono monitorare, però l'area in parte sta dando dei primi frutti di miglioramento. Su area C però ci sono anche delle polemiche e delle proteste. I residenti per esempio chiedono di non pagare alcun ticket, attualmente devono pagare 2 euro o comunque hanno 40 passaggi gratuiti. Perché il comune non concede questa gratuità? Dunque, c'è un provvedimento sperimentale, quindi può essere anche migliorato e cambiato in corso d'opera. E quello che deve essere chiaro è che lo spirito del provvedimento non può essere stravolto, quindi è un provvedimento volto a ridurre il traffico. In tutte le congestion charge esistenti in Europa, Londra, Stoccolma, Oslo, è richiesto un contributo anche ai residenti che vivono in un'area decongestionata e che devono anche loro contribuire alla riduzione del traffico. Poi possiamo discutere se la soluzione che abbiamo adottato è equa, eccessiva o troppo ridotta, come dicono anche altri, però credo che il principio sia corretto. Altre critiche arrivano invece dai commercianti, che dicono i nostri guadagni sono diminuiti. Come rispondete a questa critica? Ma sai, in tutte le città italiane i commercianti lamentano una riduzione degli affari. Non è Area C a ridurre gli effetti, tra l'altro, appunto, come dicevamo all'inizio, oltre 500.000 di persone entrano ogni giorno in Area C con i mezzi pubblici. Prima ne entravano anche 100.000 in macchina, adesso sono 50.000, ma c'è un incremento degli utenti del trasporto pubblico. Io non credo che si debba andare per forza in macchina per fare shopping, ma lo si possa fare anche in altri modi. Fa parte di un cambiamento che il paese deve mettere in atto. Non possiamo essere così vincolati dall'uso dell'automobile come è accaduto in passato. Come avete sentito nell'intervista all'assessore Maran, in queste due prime settimane di applicazione dell'area C il livello delle polveri sottili è rimasto stabile, ma quello che è diminuito è del 30% è il black carbon, ossia la parte più dannosa del PM10. Ne abbiamo parlato con Giovanni Invernizzi, responsabile del laboratorio di ricerca ambientale della Società Italiana di Medicina Generale. Questo tipo di intervento di limitazione di traffico è importante, perché riduce in modo sensibile le concentrazioni di queste nanopolveri carboniose, che sono una componente molto importante, una delle più tossiche del PM10. La cosa, diciamo, importante da sottolineare è che questi studi ci hanno dimostrato che questa riduzione, questa variazione delle nanopolveri si verificava a parità di PM10, cioè in presenza di quel tipo di intervento sul traffico che portava a situazioni diverse di concentrazione, erano diverse le concentrazioni di polveri nei diversi tratti, ma il PM10, di polveri carboniose, ma il PM10 restava uguale. Quindi, insomma, possiamo dire che anche se il PM10 rimane costante, se la sua componente di black carbon diminuisce, è una buona notizia. Questo assolutamente, questo fra l'altro vale purtroppo sicuramente per ora, quello che sappiamo, solamente in prossimità e per quelle zone che adottano questo tipo di intervento, e quindi per le zone, in questo caso Area C, avrà sicuramente un PM10 meno tossico di quello che sarà fuori dall'area C, però adesso poi sono in atto dei monitoraggi in collaborazione anche con AMAT che stiamo facendo per monitorare il black carbon anche all'esterno, nelle zone al di fuori dell'area C, perché è possibile anche che si verifichi una riduzione di traffico. Se c'è meno traffico veicolare, c'è meno inquinamento da nanopolveri, che, come dico, sono le più pericolose, perché sono, essendo ultrafini, riescono a penetrare non solo tutto l'albero respiratorio, ma arrivati agli alveoli riescono anche a traslocare, un termine che si usa in questo caso, cioè passare attraverso la barriera alveolare e riversarsi nel torrente ematico. Quindi, passando nel sangue, poi si distribuiscono a tutti i tessuti e agli organi del nostro corpo e possono colpire in maniera, per esempio, specifica, per esempio, l'apparato cardiovascolare, le arterie e il cuore stesso. La creazione dell'area C ha però sollevato polemiche. È stato costituito un comitato residenti che critica il provvedimento. Uno degli esponenti di questo comitato è Luca Scalmana. Sentiamolo. Prima di tutto devo rettificare una cosa. Noi non ci opponiamo al provvedimento di area C in generale, ma semplicemente al risvolto che ha Area C rispetto ai residenti che sono costretti a dover pagare il ticket per tornare a casa propria. Quindi, insomma, voi chiedete di non pagare il ticket per quelle persone che sono residenti? Esatto, esatto, cioè nel senso che come movimento non abbiamo una posizione comune su area C, cioè ci sono aderenti che sono a favore e aderenti che non lo sono, però il nostro motivo di riunirci in comitato è esclusivamente, diciamo, su quello che noi riteniamo l'aspetto discriminatorio del provvedimento area C rispetto ai residenti che, a differenza degli altri cittadini, nostri concittadini di Milano, non possono tornare a casa propria diciamo senza limitazione d'orario oppure senza pagare un ticket. Il comune però ha dato ai residenti, diciamo, 40 passaggi gratuiti e ha fissato il ticket a 2 euro invece di 5 euro, quindi insomma ci sono stati degli sconti nei confronti dei residenti, questo non è sufficiente? Ma giustamente lei li ha chiamati sconti, noi pensiamo che la soluzione debba essere diversa, cioè ci deve essere una soluzione che ci permetta di non pagare. Le spiego molto brevemente. Chi vive al di fuori della cerchia dei bastioni può decidere se usare la macchina o non usare la macchina per entrare all'interno e quindi in qualche maniera il ticket è una misura che serve a cercare di dissuadere le persone che possono farlo a non utilizzare la macchina per entrare all'interno. Per il residente invece che deve recarsi al di fuori della cerchia per fare attività, per andare in luoghi potenzialmente non serviti dai mezzi pubblici, è costretto a uscire con la macchina ed è costretto a rientrarci perché tra l'altro le nostre aree di parcheggio sono totalmente all'interno dell'area C e non potremo parcheggiare all'esterno, per cui vuol dire noi siamo i residenti sono obbligati a dover tornare indietro, a tornare all'interno e pagare, quindi viene a cadere il concetto di dissuado se posso fare una scelta, qui non c'è una scelta. Però 2 euro, pagare 2 euro è meno che pagare un biglietto della metropolitana andata e ritorno che viene a costare 3 euro, quindi insomma non è un costo così elevato alla fine se bisogna spostarsi, perché spostarsi con i mezzi uno paga almeno 3 euro, spostarsi con la macchina paga 2 euro più ovviamente il costo della benzina. Sì, se la vediamo da questo punto di vista può anche essere, però l'aspetto su cui vorrei richiamare la sua attenzione, l'attenzione dei radioascoltatori, è proprio l'aspetto di limitare la mia libertà. Potenzialmente, se noi guardiamo il razionale che c'è dietro l'area C, dovrebbe limitare la circolazione all'interno dell'area, dissuadendo le persone ad entrare nell'area. Invece noi residenti siamo trattati completamente al contrario, cioè se facciamo dei percorsi che nascono nell'area C e finiscono nell'area C, potremmo stare tutto il giorno a girare in macchina, a inquinare, a congestionare senza nessun vincolo, mentre siamo vincolati nel ritornare a casa nostra. Direi che è un qualcosa che va sistemato, L'area C di Milano ha preso spunto da altre esperienze. A Londra, per esempio, la congestion charge esiste da 5 anni e ha rivoluzionato il volto della città. Lo dice uno studio condotto dalla City e diffuso da Enrico Fedrighini, dei Verdi di Milano e portavoce del comitato promotore Milano si muove. L'ha intervistato Cristina Carpinelli. La congestion charge a Londra è nata avendo quella città altri problemi rispetto alle concentrazioni di inquinamento presenti nel bacino padano e a Milano in particolare, quindi è nata proprio come una misura per sostanzialmente ridurre il traffico e meno mirata, almeno all'inizio, per quanto riguarda la riduzione dello smog. Misura che poi è stata incrementata, è stata presa da un governo cittadino di sinistra, Livingston, ed è stata mantenuta dall'attuale giunta conservatrice guidata dal sindaco Johnson. Ha avuto degli incrementi tariffari, adesso si paga circa 12 sterline per l'accesso, ha avuto effetti positivi per quanto riguarda le ricadute degli introiti su tutta l'area della Grande Londra, sono stati acquistati l'equivalente di 500 bus in un sistema che già è sorretto da 9 linee metropolitane, bus che servono soprattutto i quartieri periferici della grande area metropolitana londinese, che quindi hanno aumentato l'accessibilità a mobilità pubblica da parte di persone che non l'avevano, questo con i proventi della congestion charge. In più, anche lì come qua, i commercianti temevano che la cosa potesse avere un impatto negativo per quanto riguarda gli affari, c'è stato anzi un aumento della vitalità economica da parte delle attività all'interno della zona tariffata. Sono anche diminuiti ovviamente gli incidenti automobilistici? C'è stata una riduzione degli incidenti automobilistici, ma la cosa più interessante è stata l'esplosione della ciclabilità, e cioè come deve avvenire anche a Milano, mi auguro che avvenga anche a Milano, la congestion charge è un motore propulsivo, ma soprattutto anche non solo per la riduzione del traffico, ma per le risorse nuove che genera, che sta in piedi e può stare in piedi se vengono prese tutta una serie di altre misure. Londra non è una città particolarmente amica delle biciclette, oggi è una delle città dove la ciclabilità, addirittura non di breve media percorrenza, perché a differenza che Milano, dove i percorsi medi compiuti giornalmente dalle persone sono di media di una distanza di 3,5 km, a Londra le distanze sono molto più estese. Ebbene, Londra sta sviluppando una serie di reti ciclabili veramente importanti. L'altro pianeta. In questa seconda parte dell'altro pianeta diamo spazio a Mr. Kilowatt. Molti di voi se la ricorderanno come rubrica fissa di Radio 24 in onda dopo il GR delle 21, ora sostituita da Smart City, ma Mr. Kilowatt ha trovato spazio appunto all'interno dell'altro pianeta, e a condurlo c'è sempre Maurizio Melis. Ciao Maurizio. Ciao Alessandra. Allora, oggi parliamo di metano. Sì. Perché ho scoperto proprio grazie a Maurizio Melis che esistono diversi tipi di metano, e tra l'altro è un argomento molto attuale. Io partirei dall'idea più originale, che è quella del metano abiogenico. Che cos'è? Beh, allora, per risponderti ti porto su Marte, ma passando dalla Turchia, ecco, diciamo così. Allora, il metano abiogenico, intanto il metano abiogenico vuol dire metano che ha un'origine chimica non organica. Normalmente il metano, come anche il petrolio e il gas, sono di origine organica, sono vecchi depositi di alghe, per esempio, di massa forestale o anche animale, che ha subito delle trasformazioni per alcune decine di milioni di anni nel sottosuolo ad alte pressioni e temperature, avviene una sorta di decantazione, per cui insomma vengono fuori questi che sono noti come combustibili fossili. Quello che si è scoperto è che il metano, che tra l'altro di tutti i combustibili fossili è di gran lunga il più pulito, perché una molecola di metano è fatta da un atomo di carbonio e 4 di idrogeno, quindi è molto ricca di idrogeno, e bruciandola non produce particolato, inquina pochissimo, quindi un combustibile che ci interessa molto. Ebbene, si è scoperto che può avere delle origini abiogeniche, cioè reagendo idrogeno presente nel sottosuolo che deriva dall'acqua e carbonio presente nel sottosuolo possono produrre metano. Questo processo in realtà era già noto, i tedeschi lo usavano, si chiama processo Fischer-Tropsch, per produrre benzina durante la Seconda Guerra Mondiale, perché loro avevano tanto carbone ma poca benzina, ma avveniva a temperature molto alte. E quindi di fatto questo rende questo processo poco utile per produrre metano oggi. Quello che si è scoperto è che si può fare a bassa temperatura, e questo apre degli scenari molto interessanti, perché vuol dire avere tanto metano a disposizione a basso costo energetico. Quindi insomma, mettendo insieme acqua e CO2, anidride carbonica, anche a basse temperature riusciamo ad ottenere il metano. Perché andiamo su Marte? Così te lo ecco. Dico velocemente. Perché si stava cercando di capire come fosse possibile, quale fosse anzi l'origine del metano che è presente, si sa da circa 10 anni, nell'atmosfera di Marte. Cercando una risposta a questa domanda si è trovato questo nuovo meccanismo, scoprendo che c'è un luogo in Turchia, Chimera, una famosa località archeologica, in cui questo metano abiogenico fuoriesce dalle rocce. Questo così processo avviene, perfetto. E invece che cosa si intende per biometano? Biometano è un metano che invece producono degli animaletti, di solito sono dei metanobatteri, consumando per esempio gli scarti vegetali o animali. Quindi loro, come scarto, noi produciamo anidride carbonica, per esempio, che espiriamo, loro espirano tra virgolette metano. Che cosa consente di fare questo? Beh, di produrre appunto metano a partire dagli scarichi. È una cosa abbastanza normale, si fa con le discariche, si fa anche con appunto i rifiuti organici. Tra l'altro, proprio adesso in Italia si sta discutendo di una legge che consente di immettere il biometano direttamente nella rete del gas, ed è un tema di questi giorni, e sembra dalle stime dell'Unione Europea che ci sia un forte potenziale anche lì. E finiamo con l'ultimo tipo di metano, sì, che oggi appunto ha preso esistere, lo shale gas. Lo shale gas o gas non convenzionale. Beh, normalmente il metano come si fa ad estrarre? Si fa un buco nel terreno, si intercetta un giacimento, questo giacimento è in pressione e questo gas esce da solo. Si è scoperto che il metano, il gas naturale in realtà, che però è quasi tutto metano, è presente in alcuni tipi di rocce, in un altro, diciamo, intrappolato. Per tirarlo fuori bisogna fare un buco, e questo è normale, ma iniettare dentro qualcosa che in qualche modo lo spinga fuori. Acqua, ma anche solventi, quindi dal punto di vista... Quindi un processo invasivo, insomma. Può essere pesante dal punto di vista ambientale, dipende però molto se viene fatto bene, se viene fatto male, come sempre. Questo per dire, insomma, che il metano sta veramente guadagnando punti anche in prospettiva. Ma vogliamo ricordare, Maurizio, per che cosa usiamo il metano? Beh, insomma, lo usiamo tutti in casa per cuocere la pasta, lo usiamo per riscaldare la nostra casa. Abitualmente l'Italia è uno dei paesi più metanizzati al mondo. Un tempo c'era la pubblicità, il metano ti dà una mano. Certo, assolutamente. E ci dà una mano anche quando accendiamo la luce, perché più del circa il 50% dell'energia elettrica in Italia è prodotta con il metano. Noi siamo uno dei paesi in assoluto più dipendenti dal metano, ma la vera domanda che dovremmo farci è perché lo usiamo così poco, nel senso che è un combustibile molto più pulito del petrolio, ma veramente molto più pulito, emette meno CO2 e meno inquinanti. Il fatto è abbastanza semplice in realtà: trasportare un gas è molto più difficile che trasportare un liquido. Per esempio, se l'Italia e la Russia decidono di commerciare in gas, devono costruire un gasdotto, e questo gasdotto costa tantissimo, e questo comporta la necessità che i due paesi, per esempio, stringano dei rapporti o firmino dei contratti trentennali, come è accaduto in questo caso. Tra l'altro, ti do un'informazione: oggi purtroppo questa infrastruttura, che certamente è stata costruita a suo tempo per buone ragioni, però è quella che ci impedisce di approfittare dello shale gas scoperto negli Stati Uniti, che ha fatto cadere di 2 o 3 volte il prezzo del metano appunto negli States. E noi siamo costretti invece a comprare quello della Russia perché ci siamo impegnati con loro, e anche perché ci manca qualche rigassificatore, e questo è un altro tema di cui si parla spesso. Grazie Maurizio Melis. È all'angolo di Mr. Kilowatt, adesso la linea va alla rubrica Articolo 9. Buongiorno da Marco Carminati, abbiamo in collegamento con noi oggi il professor Marco Vitale, un insigne economista. Buongiorno professor Vitale. Buongiorno a voi. Ecco, come tutti i grandi economisti, ci sono sempre passioni sportive. La montagna è una delle cose che spesso coinvolge e accomuna tanti professionisti anche dell'economia. So che lei ha un amore particolare per una parte delle nostre Alpi, la Valtellina. La Valtellina è una valle delle Alpi che confina con l'Engadina da una parte e col Trentino dall'altra parte. Sì. Ha al suo centro dei complessi alpini di grandissimo valore, di grandissimo interesse, come l'Ortres, il Gran Zebrù, il Cevedale, cime tutte intorno ai 3.000 metri. Bellissimo. La sua caratteristica, force anche rispetto a valli, ad altre valli più famose, è proprio che soprattutto l'alta Valtellina si distende in valli larghe al sole, e quindi è una delizia anche d'estate per chi ama passeggiare e non cimentarsi solo negli sport alpini. Ecco, quindi un angolo particolarmente accogliente della parte nord della Lombardia, che corrisponde con la provincia di Sondrio. Però se naturalmente parliamo di questo angolo d'Italia è anche perché incombono su questa parte d'Italia problemi e anche pericoli. Ecco, quali sono i pericoli della Valtellina? Pericoli molto... dei pericoli le distorsioni già in parte realizzate, realizzate sono abbastanza tipiche di anche queste delle nostre Alpi. Un fondo valle disastroso, cresciuto senza ordine da parte di amministrazione che non sanno programmare, non sanno pianificare, e quindi un caos assoluto. Nell'alta valle invece, dove ci sono delle cittadine, dei paesi di antica tradizione anche storica, si era fino a poco tempo fa difesa, nel senso che aveva conciliato un buon sviluppo turistico con una buona salvaguardia del territorio. Invece con i campionati del mondo di sport invernali si è riversata sull'alta valle una cifra enorme, 200-300 milioni di euro, che si sono tradotti in un massacro. E quindi oggi l'Alta Valle soffre di un'esplosione di cemento drammatica. Ecco, invece ci sono valli laterali come la Val Grosina, la Val Masino, che si sono salvaguardate e che quindi rappresentano delle oasi straordinarie di montagna vera oramai, certo. Mentre invece nei centri dell'Alta Valle la montagna è quasi sparita, è quasi, no? Perduta. Ecco, forse per questo, per questa peculiarità, queste due piccole valli che lei ha citato, che si sono salvate, sono entrate un po' nel mirino dell'interesse del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano, che ha lanciato proprio una campagna per salvaguardare questi angoli d'Italia, tra l'altro coinvolgendo proprio lei, professor Vitale. Ecco, secondo lei, che cosa, che conosce bene questi posti, che cosa si può fare per conciliare il fatto che comunque la gente va in montagna, che le montagne si sfruttano, ma mantenendole in un giusto rapporto con l'uomo, con la presenza dell'uomo? Che cosa possiamo fare di queste due valli, per esempio, per non distruggerle? Ha già da molti anni, sì, una proprietà molto bella sopra Sondrio, che gestisce con molta attenzione, con molta cura, e che è diventato un punto di incontro, un punto di passaggio, un punto di ristoro. C'è un ristorantino molto civile, molto ben gestito, ed è un luogo dove si va molto volentieri. Recentemente ha avuto un'eredità molto importante anche come estensione, con dentro varie case rurali, boschi eccetera, e qui i programmi sono abbastanza chiari. Siccome questi prati, questi boschi, queste case rurali abbandonate purtroppo perché l'economia rurale si ritira, non possono essere protetti altro che da strutture tipo il FAI, che le inserisce in circuiti turistici delle persone che amano la montagna, amano la natura, e qui trovano ospitalità naturale, come un'ospitalità casalinga, diciamo, no? Bene, lei invita naturalmente a mettersi le gambe in spalla e a godere di questi bellissimi posti, camminando, sostando, ma senza costruire troppo, senza distruggere, utilizzando quello che la montagna in tanti secoli di saggezza ci ha lasciato. So che lei ama molto Carlo Cattaneo, proprio Carlo Cattaneo, un grande economista come lei, dava al valore del paesaggio naturale della Lombardia un ruolo enorme. Grazie professor Vitale. Grazie mille. E grazie a tutti gli ascoltatori da Marco Carminati. E anche per questa puntata dell'Astro Pianeta è tutto. Una buona giornata da Alessandra Tedesco.